Capitolo 91. Scilla e Niso. Minosse fu il primo re che riuscì a esercitare un controllo sulla navigazione nel Mediterraneo. Sbarazzò quel mare dai pirati e il suo potere in Creta si estese su 90 città. Quando gli ateniesi assassinarono suo figlio Androgeo, egli decise di vendicarsi e navigò per l'Egeo raccogliendo navi ed eserciti alleati. Alcuni isolani acconsentirono a dargli manforte, altri rifiutarono. Sifno cedette alle richieste di Minosse dietro l'insistenza della principessa Arne, che Minosse stesso aveva corrotto con dell'oro. Ma gli dei la punirono trasformandola in una gazza ladra che è attratta dall'oro e da tutto ciò che luccica. Minosse trovò alleati tra la gente di Anafe, ma ebbe un secco rifiuto da Eaco, re di Egina, e ripartì giurando di vendicarsi. Eaco allora rispose all'appello di Cefalo e si unì agli ateniesi contro Minosse. Frattanto Minosse già si accaniva nella zona dell'istmo di Corinto. Egli assediò Nisa, governata da Niso l'egiziano, che aveva una figlia chiamata Scilla. Una torre costruita da Apollo e Posidone sorgeva nel mezzo della città e ai suoi piedi era una pietra musicale. Se vi si lasciavano cadere sopra dei sassolini suonava come una lira, perché Apollo aveva deposto la sua lira proprio su quella pietra quando lavorava come muratore. Scilla usava trascorrere lunghe ore in cima alla torre, lasciando cadere sassolini sulla pietra per trarne suoni, e continuò a salirvi anche quando la guerra cominciò per osservare dall'alto il combattimento. Col prolungarsi dell'assedio, Scilla conobbe per nome tutti i guerrieri cretesi. Colpita dalla bellezza di Minosse, dalle sue magnifiche vesti e dal suo bianco destriero, si innamorò perversamente di lui. Taluni dicono che questo fu il volere di Afrodite, altri accusano Era. Una notte Scilla si introdusse nella camera del padre e gli recise la famosa ciocca dorata da cui dipendevano la sua vita e il suo regno. Poi, rubate le chiavi della porta della città, l'aprì e si allontanò rapidamente. Entrata nella tenda di Minosse, gli offrì la ciocca di capelli in cambio del suo amore. «Accetto!» gridò Minosse, e quella sera stessa, conquistata e saccheggiata la città, si giacque con Scilla. Ma non volle portarla con sé a Creta, perché il patricidio gli faceva orrore. Scilla tuttavia inseguì la nave di Minosse a nuoto e si aggrappò al timone finché l'ombra di suo padre Niso, in forma d'aquila marina, piombò su di lei con gli artigli e il becco tesi. Scilla, terrorizzata, mollò la presa e annegò. La sua anima volò via sotto forma di un uccello ciris, ben noto per il suo petto e le sue gambe rosso porpora. Ma taluni dicono che Scilla fu annegata per ordine di Minosse, e altri ancora che la sua anima prese la forma del pesce Ciris e non dell'uccello di tale nome. Nisa fu in seguito chiamata Megara in onore di Megareo, figlio di Enope e di Ippomene. Egli era stato alleato di Niso, ne sposò la figlia Ifinoe e si dice gli succedesse al trono. La guerra si prolungò con alterne vicende finché Minosse, vedendo che non poteva avere la meglio sugli ateniesi, pregò Zeus di vendicare la morte di Androgeo, e l'intera terra fu allora devastata da terremoti e carestie. I re di varie città si radunarono a Delfi per consultare l'oracolo e fu loro risposto che dovevano affidare a Eaco l'incarico di innalzare preghiere. Così fu fatto, e i terremoti cessarono in ogni parte della Grecia, fuorché in Attica. Gli ateniesi allora cercarono di allontanare da sé la maledizione celeste, sacrificando a Persefone le figlie di Giacinto, cioè Antide, Eglide, Littea e Ortea, sulla tomba del ciclope Geresto. Queste fanciulle erano giunte ad Atene da Sparta. Tuttavia i terremoti continuarono e quando gli ateniesi consultarono di nuovo l'oracolo delfico, fu loro detto che dovevano dare a Minosse la soddisfazione che egli avesse chiesto. E Minosse volle che ogni 9 anni gli fosse pagato un tributo di 7 fanciulli e 7 fanciulle che dovevano giungere a Creta per esservi divorati dal Minotauro. L'origine storica del mito di Scilla è evidentemente una controversia sorta tra gli ateniesi e i cretesi non molto prima del saccheggio di Cnosso nel 1400 a.C. Questo mito, che si ripete quasi esattamente nella leggenda Tafia di Pterelao e Cometo, ricorda quello filisteo di Sansone e Dalila. Le leggende di Curo, i Blatnate e Cuculaini in Irlanda, Liulau, Blodowed e Gron nel Galles sono tutte variazioni del medesimo schema. Il mito si ricollega alla rivalità tra il re sacro e il suo successore, sorta per amore della dea Luna che, a mezza estate, recide i capelli del re Sacro e lo tradisce. La forza del re risiede appunto nei suoi capelli, poiché egli rappresenta il sole e i suoi riccioli biondi sono paragonati ai raggi dell'astro. Dalila taglia i capelli di Sansone prima di chiamare i Filistei. Blatnat lega i capelli di Curoi alla sponda del letto prima di farlo uccidere dal suo amante Cuculain. Blodeuwed lega i capelli di Llywelyn a un albero prima di invocare l'aiuto del suo amante Gronw. L'anima di Llywelyn prende la forma di un'aquila e Blodeuwed, dal bell'aspetto di fiore, una donna magicamente composta di 9 fiori diversi, si trasforma in civetta, come accadde forse a Scilla nell'originale leggenda greca. Una sovrapposizione di questi 5 miti dimostra che Scilla, Cometo, Blodeuwed, Blatnat, Dalila è la dea Luna nel suo aspetto primaverile ed estivo di Afrodite, Cometo, dai lucenti capelli. In autunno essa si trasforma in civetta o in un ciris e diventa la dea della morte Atena, che ha molte epifanie di uccello, compresa quella di civetta, o Era o Ecate. Il suo nome, Scilla, indica che il re veniva fatto a pezzi dopo che gli erano stati tagliati i capelli. Come nel mito di Llywelyn, la punizione inflitta poi alla perfida traditrice è una tarda aggiunta a carattere morale. Ovidio, nell'Ars Amatoria, identifica codesta Scilla con una sua omonima che Afrodite trasformò in un mostro a forma di cane perché Posidone l'aveva sedotta e dice che albergava nel suo ventre cani selvaggi come punizione per aver reciso la ciocca di Niso. Ovidio commette raramente errori mitologici e può darsi che ricordi qui la leggenda secondo la quale Minosse, colpito dalla maledizione di Pasifae, riempì il ventre di Scilla di cuccioli anziché di serpenti, scorpioni e mille piedi. Pasifae e Anfitrite sono sempre la dea della luna e del mare, e Minosse, come signore del Mediterraneo, fu identificato con Posidone. Il sacrificio delle figlie di Giacinto sulla tomba di Geresto si riferisce forse ai giardini di Adone, piantati in onore del re ucciso. Trattandosi di fiori recisi, appassivano in poche ore. Ma Geresto era un ciclope pre-acheo e, secondo l'Etymologicum Magnum, le sue figlie furono le nutrici dell'infante Zeus a Gortina. Inoltre, Gerestione era la città Arcade dove Rea fasciò Zeus. Le Giacintidi, dunque, furono probabilmente le nutrici e non le figlie di Giacinto, sacerdotesse di Artemide che a Cnido portavano il titolo di Giacintotrofe, nutrici di Giacinto e identificabili con le Gerestidi, poiché la morte dello Zeus cretese si identificava a sua volta con la morte di Giacinto. Il mito dunque riguarda forse le 4 bambole appese a un albero da frutto in fiore, rivolte verso i 4 punti cardinali, in una di quelle cerimonie della Artemide impiccata, intese ad assicurare un buon raccolto. I 7 fanciulli ateniesi offerti al Minotauro erano probabilmente i sostituti sacrificati ogni anno in luogo del re di Cnosso. Appare logico che si preferisse immolare degli stranieri anziché dei giovani cretesi, come accadeva nel rito cananeo della crocifissione, dove prigionieri di guerra o criminali finirono con l'essere considerati sufficienti sostituti di Tammuz. Ogni 9 anni significa alla fine di ogni grande anno di 100 lunazioni. Dopo che 7 giovani erano stati sacrificati ogni anno in luogo del re, anch'egli doveva morire. Le 7 fanciulle ateniesi non venivano immolate. Servivano forse in qualità di ancelle la sacerdotessa della luna ed eseguivano danze acrobatiche in occasione delle lotte coi tori, come si vede in molte opere d'arte cretesi, uno sport pericoloso ma non necessariamente fatale. È probabile che vi fosse a Megara una serie di pietre musicali disposte a mo' di xilofono. Tale strumento non sarebbe stato difficile da costruire, ma forse la leggenda serba un ricordo della statua canora di Memnone in Egitto, una statua concava con un buco sul fondo della bocca aperta, attraverso il quale l'aria calda passava sibilando quando il sole all'alba riscaldava la pietra.